Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Patrick Fogli, autore di La puntualità del destino, pubblicato da PM. Non è certo la prima volta che Radio 24 ospita nei suoi studi Patrick Fogli, che è uno dei maggiori esponenti del noir all'italiana. Ne avevamo parlato proprio all'inizio della sua carriera, nel 2006, con Lentamente prima di morire, e poi su quelli che sono stati dei romanzi mix fra fiction e inchiesta, ossia Non voglio il silenzio, che parlava appunto della vicenda Borsellino Falcone, e poi Il tempo infranto, invece, che si ispirava al fatto vero della strage di Bologna. Patrick, tu spesso nei tuoi romanzi hai fatto riferimento alla cronaca vera, fatti veri, e appunto facevi un mix di inchieste e di romanzo. In questo caso si tratta di una fiction pura, eppure la cronaca in qualche modo ci rientra, a partire dall'ambientazione, perché è ambientato in un paesino dell'Appennino bolognese che viene sconvolto da un terremoto. Però tu hai scritto questo libro prima del terremoto di maggio, giusto? Ci tengo a dirlo che ho scritto questo libro prima del terremoto di maggio. Non solo l'ho scritto, l'ho anche consegnato ampiamente prima del terremoto di maggio. Talmente tanto che quando poi il terremoto c'è stato veramente, qualche dubbio mi è anche venuto. Poi è vero che in realtà il terremoto è un pretesto narrativo, una metafora nella storia, nel senso che il terremoto c'è all'inizio della storia, la storia comincia con il terremoto. È un terremoto molto meno devastante di quello che poi ha colpito le zone vicine a dove abito, e è più un terremoto metaforico. Cioè, nella notte in cui c'è il terremoto scompare una ragazzina di 14 anni, e quello che succede poi nelle vite di tutti quelli che hanno a che fare con quella vicenda è il vero terremoto della storia, che non ha a che fare con... È un terremoto sociale, un terremoto emotivo, perché insomma, poi come sempre accade in questi casi, nel piccolo paesino di provincia si vengono a scoprire delle realtà nascoste che partono da un caso e poi si scoperchia, come dire, tutt'altro. Sì, in realtà nel piccolo paese di provincia, San Sebastiano degli Appennini, dove è ambientata la storia, che non esiste, è un'invenzione mia, tutti sono convinti di sapere tutto di tutti, in realtà non è assolutamente vero, o magari è anche vero e fanno finta di niente. Quello che si scoperchia è più che altro un terremoto emotivo, ed era quello che mi interessava di più. Quello che volevo cercare di raccontare era cosa succede dentro una famiglia che improvvisamente diventa il primo caso dei telegiornali, il primo articolo dei giornali, che ha le telecamere al bivacco fuori di casa, che ha la curiosità dell'universo mondo al bivacco fuori di casa, fisicamente e metaforicamente, e che nel mezzo, come se fosse un accessorio, vive, credo, la peggior tragedia che possa capitare a due genitori, la scomparsa di una figlia assolutamente nel nulla. Quindi ti devi difendere da quello che ti è capitato, devi cercare di capire che cosa è rimasto di te, e soprattutto devi difenderti dal mondo, che sembra semplicemente interessato a entrare in casa tua e a scoprire cosa tieni nel frigorifero alla fine, perché poi andando al sodo, le vittime in tutti questi casi di cronaca, che alla fine si assomigliano tutti, sono quasi un accessorio, sono il pretesto per scatenare altro. Ecco. Infatti, a proposito anche dei media, dei giornalisti che hanno una curiosità morbosa per questi fatti di cronaca, la storia della protagonista, insomma, del tuo libro, non della protagonista, insomma, della ragazzina che scompare, mi ha ricordato a tratti la vicenda di Yara Gambirasio, che era scomparsa a Brembate di Sotto nel Bergamasco e poi è stata appunto trovata morta. In qualche modo tu ti sei ispirato a fatti di cronaca? Ma in realtà no, secondo me ricorda Yara Gambirasio semplicemente perché Yara Gambirasio è stata l'ultima. C'è una cosa che accomuna tutte queste storie e che sono tutte uguali. In tutte queste storie c'è una ragazzina che scompare, in tutte queste storie c'è il colpevole perfetto, che in realtà è spesso un extracomunitario e che nel 99% dei casi non c'entra assolutamente nulla e si capiva a monte. È ancora una volta un pretesto, certo, per, cioè, come dire, puntare il dito contro qualcuno. Esatto, si capiva a monte che non c'entrava niente, ma comunque ci proviamo. In tutti questi casi c'è il dettaglio insignificante di quello che accade, masticato e poi spesso volentieri sputato alla fine della storia. Perché è vero che la cronaca nera ha sempre fatto audience, cioè da Vilma Montesi negli anni 50, no, certo, a scendere, però è cambiato qualcosa. Se noi prendiamo ad esempio il delitto di Via Poma, tanto per intenderci, la curiosità nella sorte di Simonetta Cesaroni è capire chi l'ha uccisa, In tutti questi casi, Sara Scazzi, Iera Gambirasio, Tommaso Onofri, quando è successo Tommaso Onofri, in tutti questi casi ci sono due costanti. Nel momento in cui si ritrova il corpo, la curiosità finisce e invece dovrebbe cominciare. Il problema adesso è capire che cosa è successo a Iera Gambirasio. È finita, dal punto di vista mediatico è finita. E una curiosità morbosa al di fuori del mondo dei media, perché io nel libro tratto malissimo una parte di informazione, certo, però non tratto meglio chi la guarda. Io trovo malato altrettanto, se non peggio, tutto quel mondo di santini, croci, ceri, fotografie, pupazzetti, la gente che va a fotografare i luoghi dei delitti, la gente che si mette dietro le telecamere. Sì, sì, abbiamo visto di tutto, anche con Sara Scazzi soprattutto, ma anche con Iera Gambirasio. Io ricordo anche il caso di Tommaso Onofri che tu citavi, il bambino scomparso a Parma. Avevo seguito per Radio 24 quel caso proprio lì davanti alla questura di Parma giorni e giorni. E francamente il comportamento di alcuni colleghi era imbarazzante, insomma, perché ci si cercava di carpire qualsiasi, come dire, espressione del viso della mamma. Infatti, per dire, bah, potrebbe entrarci qualcosa anche lei. Noi siamo arrivati, e credo che in questo senso il caso di Sara Scazzi sia emblematico, siamo arrivati alla fisionomica del dolore. Cioè abbiamo dei genitori che non sono abituati a stare davanti a una telecamera perché non è il loro mestiere, che vivono una situazione di tragedia inimmaginabile, che si trovano un obiettivo puntato in faccia, dall'altra parte della gente che li giudica anaffettivi semplicemente perché non piangono o perché non hanno l'atteggiamento che ti aspetteresti da loro. Che ci si aspetta, certo, poi ognuno proietta le sue paure sugli altri. Ritornando però prettamente al tuo romanzo, il protagonista è ancora una volta Gabriele Riccardi, che è un ex poliziotto, era già comparso nel tuo romanzo Lentamente prima di morire, e viene incaricato dalla famiglia per indagare. Che tipo è questo Gabriele Riccardi? Ma Gabriele è un ex poliziotto che non ha mai fatto veramente i conti con se stesso, che odia il mondo. Gabriele è uno che potrebbe dirti tranquillamente che il 70% della popolazione mondiale è superflua, non serve sostanzialmente a nulla. Odia il mondo, non fa niente per fare in modo che il mondo lo ami, ed è perfetto per una storia di questo genere, perché è la persona perfetta per dire che il re è nudo. Non si vergogna a dire che il re è nudo, e non si vergogna neanche a dire che è stupido chi non vede che il re è nudo. In una situazione come questa mi serve un personaggio cinico, che si sente un po', che vive un po' l'effetto zombie, nel senso del film di Romero, cioè una che si sente una persona normale in un mondo di zombie, di gente che non riconosce più come esseri umani in qualche modo, ed era perfetto per raccontare una realtà malata, malata dentro, malata fuori, che sia la realtà di una provincia o di una serie di personaggi che non sono quello che sembrano, ma che sia anche appunto la realtà mediatica dentro e fuori dal mondo dell'informazione. Io prima ti ho definito come uno degli esponenti, dei massimi esponenti del noir all'italiana. Anche questo, la puntualità del destino, rientra in un noir, o secondo te qualcuno, visto che l'ha definito anche un thriller? Io non amo molto le definizioni di genere, però se lo scrittore dovesse farla... Secondo me questo è un romanzo. Ecco. È un romanzo che parte da presupposti che possono assomigliare al thriller, che è scritto in un modo che potrebbe ricordare il noir, ma non solo. Ti dico solo che il presupposto da cui questo libro è partito sono delle specie di lettere che i genitori scrivono alla figlia perché non sanno più cosa fare, e in cui loro raccontano alla figlia come era la vita prima che lei nascesse. Questo non è thriller noir, questo è un romanzo. Cerco di fare il mio mestiere di scrittore, poi quello che viene viene. Grazie a Patrick Fogli, che ora è in libreria, lo ricordiamo, con La puntualità del destino, pubblicato da PM. La storia appunto di una ragazzina quattordicenne che scompare in un paesino dell'Appennino bolognese. C'è un ex poliziotto che indaga. E vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e su Twitter come Ale Teddina. E visto che ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno, potete segnalarci qual è stato secondo voi il libro più bello del 2012, inviando una mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Ne parleremo poi naturalmente nelle puntate fra Natale e Capodanno. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.